sta ancora già, non sta facendo niente. Sono rientrata già, su qua. Gigi, giù più Gigi già. Avete che aspettare un attimino, già c'è, già c'è. Fa trucca, va. Continuate, continuate pure già. Cava gala. E andava bene. Sì. Questa è l'Argus, ti piace? Cosa già? Questa è l'Argus. L'Argus. Argus da base. L'Argus da base, non ne ha, ecco l'Argus da base. Sì, sì, l'ho comprato. Non ne ha, ecco l'Argus da base. L'ho avuto anch'io, non ne ha l'Argus da base. Ecco, tutto ce lo vuole, ecco. Sì, ma l'ho attaccato. Mickey Gain spinge molto di più, dove non ne ha è un po' più paccata la modulazione, riusciamo alla grande, dai. E adesso vediamo, già quando arriva lunedì me lo porto da Nicolo, vediamo di abbinarci qualcosa, già ne ho un microfono, se no vado e mi ricompro, non è un problema, già. Metto la caccia di un altro turner, di un altro microfono, un SBE, un turner più due, da tavolo, che ce l'avevo, l'ho venduto. Ne avevo tanti. No, mi metto la caccia, me li riprendo quei microfoni, se vanno bene a quelle radio. Si tratta solo di fare prove, già, capito? Non è un problema. Io qua posso mettere solo microfoni da tavolo, però che hanno il braccio pieghevole, perché lo spazio che c'è tra un ripiano e l'altro non è sufficiente per mettere un microfono tipo per intenderci nel MB più 5 o nel MB più 4 o il tamer. Adesso il tamer non lo so se è un po' più basso, ma mi sa che più o meno è lo stesso. Lo spazio praticamente me lo posso, ricavare togliendo fuori la base, quella che è estraibile, e appoggiandolo sopra di tutto. Buonasera. Buonasera, buonasera. No, è più alto il tarantito, leggermente, proprio la punta è leggermente più alta rispetto all'MBP5, già ce li ho qua, li ho visti. Avanti, buonasera. Buonasera, buonasera, Vittorio Giove. Ascolta, a proposito di microfoni da tavolo, allora, pulsantino 1, aspetta che qua sono quasi al buio, dove se ti trovo. Dovrebbe essere questo, vediamo un po', mi dici se cambia da questo passaggio a questo secondo, cambio. Leggermente, detto ciao, buonasera, ben ascoltato, da te già. Ok, allora, diciamo che questo è posizione 1, posizione 1 e posizione 2, stava scappando questa roba, se c'è variazione. A me non sembra, non mi sembra che cambi niente, sinceramente. Vittorio, c'è il gas che mi sta innescando a volte, che cosa può essere? Rientro di radiofrequenza, rientro di RF. Praticamente mi copre anche la radio quando parlo, ho provato a cambiare il microfono, ho cambiato lo spino, lo spezzone, poi ho fatto mille prove, insomma. Adesso ultimamente l'ho aperto, l'ho tutto pulito con l'aria, l'ho messo lo spray per contatti, adesso sembra che si sia ripreso. Sì, ma a volte dall'antenna, cioè a volte puoi usare anche un microfono normale, senza nessuna schermatura, se hai una buona antenna che irradia, che non ritorna segnale tramite la calza del cavo, va tutto bene. Se invece c'è rientri di RF dal cavo, devi fare 3000 salti mortali per farle funzionare. Hai sentito Gianni, quanto tempo lo fa? Vabbè, ma gli altri apparati fanno bene, l'antenna è la stessa, è chiaro. Solo questo qua, ho capito. Vabbè, adesso sta andando, vediamo un pochettino. Con l'altra questione là, stanno parlando Laura e Grazia, non ti ho sentito. Allora, già mi hai chiesto, dottor Rupp. Se con l'alimentatore l'hai controllato. L'avevo acceso un paio di giorni con un paio di lampadine da 55 watt l'una con 110 watt e andava sempre bene, infatti stavo per chiamarti a ritirartelo e invece un giorno accendendo ho fatto quel ieri accendendo ho fatto quelle scariche e non tira fuori tensione e quindi lo devo aprire e controllare. Ah, ecco, te l'ha fatto anche a te. Poi sembra che di protezione non si spegne di qua c'è Vittorio, io poco fa cosa ha chiesto, può essere Gianni, può essere, ma non è detto che tutte le apparecchiature siano uguali, quindi c'è un'apparecchiatura, e qua c'è Vittorio che mi può correggere, che può essere più schermata dell'altra e quindi non fa quel difetto, c'è un'apparecchiatura che è meno schermata dell'altra, capito, e ti fa quel difetto, ma il tuo problema, secondo il mio punto di vista, non è un problema di radio, è un problema di RF causato da quelle cose che ti ho detto, dal cavo dell'antenna, dalla schermatura che hai interna, dalla radio nella posizione in cui è messa, che si è rotta le balle e rimane lì, ci sono tanti fattori, però le cause sono quelle Gianni, capito? E te l'ha detto anche Vittorio. Cioè, per 10 anni non mi sa radio, non ho mai fatto difesa. effetti, adesso farà più effetto. Serve fare scala, serve la pensione. Hai cambiato antenna o no? Sì, l'antenna l'ho cambiata, sì. Ho messo la Game Master. Allora il problema è tutto lì. Gianni, tu cioè, accetta anche le cose. Io ti ho detto poco fa che non ti ho mai sentito con un problema di RF con la Mantova. Da quando tu hai messo quell'antenna, a prescindere che secondo te va bene, è montata bene, l'antenna è ottima, funziona bene, ha sempre funzionato bene, c'è qualche problema di fondo che è causato o dall'antenna o dal cavo che percepisce un rientro di RF. Quindi quell'antenna e quel cavo che è stato montato eccetera eccetera non ha la schermatura che aveva l'altro tipo di antenna. Questo è il mio punto di vista, ma tecnicamente te lo sta dicendo anche Vittorio, capito? Adesso quando lo faccio non è la radio, poi quando smetterò di farlo facendo questo, faccio così. Ci vuole poco, tanto ne ho una, due, tre, quattro, cinque, eccetera. Ora ho imparato la scelta. I rientri di RF, Lolli, i rientri di radiofrequenza sono creati dall'antenna, è come un rubinetto che apri per l'acqua e ti spruzza acqua dappertutto, non solo dove deve scendere, ma come quando c'è troppa pressione che ti fa la doccia, non è normale. È come una strada col ghiaccio, passano delle macchine con le gomme da neve, con le gomme chiodate e passano. O passi una macchina normale e ti tronchi la mora di Rugordo, capito? Ecco, per capire. Il problema è l'antenna. I rientri di RF sono causati dall'antenna. Poi puoi sistemare mettendo del choc, mettendo dei balum, dei filtri in modo comune, eccetera, per bloccare la radiofrequenza scende lungo la calza, ma sempre perché l'antenna non lavora come deve lavorare, tutto lì. Ma se fosse stato così me l'avrebbe fatto con tutte le radio, tu lo stai dicendo stesso tu. Con le altre radio non lo fa solo con questa, capito? Con le altre radio non me l'ha mai fatto, lo fa solo con questa qui, ma solo col Galassi. Vabbè, vuol dire che il Galassi sarà diverso dalle altre radio, che ti devo dire? Vabbè, comunque. Sì, Vito, quell'alimentatore, tornando al discorso poco fa, anche modulando a volte si spegneva da solo, capito? E dove vuoi? Riaccenderlo, si spegneva e si sentiva tri quando si spegneva, come se ci fossero delle scosse elettriche, capito? Un cortocircuito, un corto all'interno. E da aprire possono essere sia i circuiti oscillatori, sia i controlli, perché quello controlla tutto, eccessiva temperatura, eccessiva corrente, cortocircuito, eccetera. C'è da andare a vedere, c'hanno quelle microschede controllo, dovevo aprire e darci un'occhiata. Allora, ti ho fatto l'esempio, te l'ho fatto per renderlo comprensibile. Se tu c'è una strada col ghiaccio, il fatto che ci passano tre macchine e nessuna esce fuori strada perché c'hanno le gomme chiodate o le gomme da neve, e tu invece ci esci fuori strada con la macchina che ci sei passato 30 anni, il problema non è la macchina, è il ghiaccio sulla strada. Ho reso l'idea o no? Sì, ho capito il discorso del tempo. E vabbè, adesso vediamo come si comporta. Sì, basta vedere con uno strumento, con un analizzatore, c'hai cioè rientri di RF dalla calza. Se tu metti, vai in questa antenna che hai montato, qualunque tipo sia, ci fai un choc con 5 spire serrate bene, ci metti un filtro in modo comune, con tutte le ferriti, vedi che non te lo fa più, né con questo, né con quello, né con l'altro. Ma il fatto che ti faccia una scintilla dal piede, quello lì può essere. Quello vuol dire che non è cortocircuitato a mazza. Se tu il PL metti così vuol dire che tra l'altro è aperta l'antenna, non è chiusa a mazza, e quindi ti crea anche elettrostatica ed è anche rischioso, oltre che prenderti la scossa tu, che ti faccia fuori qualche front-end dei ricevitori delle radio. Perché cosa ti ha dato? La scossa al PL già? No, non è che mi ha dato la scossa, l'ho appoggiato per metterlo da un'apparecchia alla fiscita la scintilla. Cosa stiamo parlando già da poco? Tu già dici sempre, se lo fa con quella radio non lo fa con l'altra. È un problema di cariche elettrostatiche causate dall'antenna, Gianni. È inutile che tu continui a insistere. È così, la realtà è quella. Quella si carica dell'elettrostatica, se la scarica all'interno, giù dove tu hai la radio, è lì il problema. Adesso tu hai scaricato, perché sicuramente come hai toccato, hai scaricato il rientro di RF, l'elettrostatica, e non te lo sta facendo. Quando si ricarica te lo fa di nuovo, è giusto o no, Vittorio? Beh sì, ma sono tutte cose che si possono misurare con un misuratore di terra, si va a vedere subito se carica statica, si può vedere con gli strumenti, ci vuole un attimo. Non ci ho capito, perché tu d'estate esci magnificamente bene, non hai un problema, quando inizia il tempo brutto hai questi problemi. È un problema serio quello dell'elettrostatica causato dal carico dell'antenna, Gianni, e stai attento. Bisogna mettere qualcosa lì, bisogna mettere qualche scaricatore, ci sono video quelli a fare, ma l'hai fatto vedere tu una volta, che si attacca praticamente prima di collegare il PL alla radio. Ci sono i balun 1 a 1, quindi l'impedenza la lascia lo stesso, ma chiudono il centrale a massa con la calza, quindi eviti questo genere di cose. Poi nella stazione puoi mettere, rispetto alla massa a terra, c'è una piastra d'acciaio con le vecchie gloriose candele delle macchine, che si arriva statica la scarica tramite il pirolino della candela della macchina sulla massa a terra, evitando di polarizzare l'antenna con la massa a terra, perché collegarlo direttamente vuol dire far diventare l'antenna un parafulmini, capito? Non di questo stavamo parlando poco fa, Gianni, adesso ci sei tu, ma te l'hai detto anche tu, io non sapevo che lui avesse avuto questo problema, quello è, basta, il rientro di RF, tu ce l'hai causato da quello che ti entra elettrostatica dall'antenna, dal cavo dell'antenna, al momento in cui c'è tempo brutto, piove, si carica di elettrostatica e poi te lo scarica all'interno, quindi di cercare qualcosa che possa fare, che non faccia rientrare questo RF all'interno delle radio, tutto qua. No, io vi faccio la solita barra a muro, tassellata a muro, quella in rame dove ci sono tutti i giallo-verdi e sono attaccati alle radio, non ne ho mai avuto di questi problemi. No. Questo è un problema, Gianni, questo è un problema che appunto ti può causare quel rientro che avevi ieri, questo è un problema, vedi, io non lo sapevo, se tu non lo dicevi prima te l'avrei detto subito, però quello è un problema, è l'elettrostatica che ti scende dall'antenna e ti va a scaricare sulla radio. Ti mettiamo la rodicia di massa, non va bene? Sì, ma ci sono anche, sono dei, praticamente sembrano dei PL, se tu guardi su internet e scrivi scaricatore di massa per radio, sono tipo dei PL che si avvita, tipo un barilotto invece, che si mette prima che tu innessi il PL alla radio e automaticamente quando c'è l'elettrostatica va a scaricare lì e la radio rimane sempre pulita, capito? Sempre vado a vedere, devo controllare se c'è qualche vite, perché ce l'ho una treccia di massa io e farla scaricare, c'ho qualche vite dietro per attaccare. C'è Gianni, c'è dietro Galaxy, c'è una vite che praticamente è vuota, tu sviti quella, le metti un occhiello, come ho fatto io, a tutte le vintage, e ci sono i giallo-verdi, io però ho la barra tassellata a muro in rame, dove escono tutti i gialli-verdi, occhiello con occhiello, e vanno a tutte le radio. O ti fai una cosa del genere, se è fattibile poterlo fare, o se non le fai un carretto giallo-verde bello grosso con due occhielli e lo attacchi dove c'è il negativo dell'alimentatore, in modo che non hai questi problemi. Adesso ce l'ho già pronta la radicia, Claudio, con la mente tutto, già saldata di tutto, ce l'ho già pronta perché la usavo in macchina che mi faceva questo problema, gli ho messo questa radicia per scaricare. Esatto, sì, me l'avevi detto quello. Un'altra domanda già ti faccio. Hai mai notato se quando qualche volta, toccando qualche radio ti ha dato, o soprattutto il Galaxy, hai sentito qualche scossa, qualche cosa? No, solo ieri l'altro giorno l'ho notato, però stava piovendo. Michele ha fatto la scintilla. Quella scintilla è stata un bene perché hai scaricato l'elettrostatica che c'era sul cavo, ok, sull'attacco del PL, arrivando poi al PL chiaramente perché carica nel cavo, antenna a cavo, poi PL e poi la porta all'interno della radio. Quello è stato un buono che l'hai scaricato, vedi che là, adesso scaricandolo, sempre è una coincidenza, ma non è più una coincidenza, è un dato di fatto, scaricando quell'elettrostatica la radio sta andando bene. Se dovesse ripetersi il problema, ti ritorna lo stesso difetto. Quindi vedi che la radio non ha niente già. Devi trovarti un sistema per poter far sì che l'elettrostatica, che è l'antenna, quel tipo di antenna, perché non è che l'antenna no, non funziona o è guasta, ok, non, quel tipo di antenna magari rispetto ad altre antenne carica un po' più di elettrostatica, anche perché all'interno hai visto come è fatta, è tutto un sistema di bobina eccetera, quindi carica più elettrostatica, quindi devi trovare un sistema per far sì che l'elettrostatica scarichi prima di arrivare alla radio. E io ho già un'idea di che cosa fare, per attaccare una piastra di rame dietro e attaccare il cavo di massa, attaccarlo e gli farlo scaricare del rame. Non è legno però, devi attaccarlo a muro, o a muro o a terra la cellata, come ce l'ho io ce l'ho attaccata a muro. Perché cosa cambia? Cambia che non scarica, e la massa è a terra, non la vuoi attaccare un legno? No, perché la massa la scarica sul rame, non scarica sul legno. No Gianni, cerchiamo di capirci, il rame se tu lo attacchi al legno è come che non l'hai attaccato, il rame deve essere tassellato con viti che toccano al rame e vanno a entrare dentro il muro e deve essere tassellato al muro oppure tassellato a terra, ok? Perché il muro fa parte del piano di terra e quindi si chiama massa a terra per quella. Se tu l'attacchi dalla tua scrivania, ok, anche se gli occhiali sono attaccati al rame, è come che non stai facendo niente. Non è una piastra di rame, è una barra di rame, una barra, sai quelle che usavano, a me ti ho detto, me l'ha data quel il pezzo di rame, già proprio la barretta di rame, già forata, tutta già forata, me l'ha data quello zingaro che io le davo il ferro, ti ricordi che te l'avevo raccontato, tutti si è messo a ridere, perché con quelle barrette lì di rame, loro fanno i bracciali, e sono barre di rame, che sono già belle di appunto, quadri elettrici, quelle sono le vere, quelle che tengono proprio la tensione, quelle che vanno usate negli impianti che usano molti radioamatori, usano molte radio private, usano molte centri di trasmissione, capito? Quella lì, una barra così, ma l'altra barra da 50 cm, tutta forata, e ci sono ce ne ho due perché poi l'ho tagliata in due, ce n'è una nella base dove ci sono i vintage e una nella base dove ci sono gli HF, tassellata a muro con dei distanziatori in gomma, però le viti sono tassellate perché entrano dentro il muro, ok, devo lasciare il botto per poter poi avvitare gli occhielli e ho fatto quel lavoro lì, non è una piastra, però per non fare tutto questo casino tu, evitare tutto questo casino perché so come si è organizzato, procurati, comprati, guarda che ci sono in vendita, si chiamano scaricatori di tensione, guarda che Marco forse l'aveva comprato uno, non mi ricordo chi, scaricatori di tensione per scariche elettrostatiche, ok, ed è sembra un barilotto, ed è praticamente PL da una parte e PL all'altra, va attaccato al cavo e l'altro va attaccato al baracchino, e fa sì che scarichi prima di arrivare al baracchino l'elettrostatica, capito? Forse ce l'ho, lo sai, che ne ho tanti degli attacchi lì, forse che ce l'abbiamo. Posso? Vai, metto. Mi ha detto che è una Game Master, Gianni? Sì. Sono andato a curiosare, a vedere di che si tratta. E qui se non è difettosa o se non è stata montata male, qua dice che sia la bobina di blocco DRF, il COC, per non scendere la radiofrequenza lungo la calza, ce l'ha, ed è la bobina sotto dove proprio c'è attaccato il PL, dove attacchi il cavo. E in più più c'ha lo scaricatore di elettrostatica, dicono loro. Quindi sono cose che non dovrebbero, quel lavoro non avrebbe dovuto farselo se lo scaricatore che c'è e sia la bobina di blocco di RF e il coche che c'è funzionano, capito? Guarda, ha fatto che arrivi la CT. Doveva scaricarla direttamente sul palo. Che lo so. Magari l'umidità, non lo so cosa sia successo. Qua sta a trovare, vuol dire non me ne segna. Ma questa antenna è buona solo perché non ti dà QRM, non ce n'è per niente, proprio QRM è quasi zero. E le stazionali sono 1 euro tutti i canali, per andare i canali alti, bassi, sempre 1 euro. Vabbè, anch'io in laboratorio, c'ho il carico fittizio, vado dove voglio, silenziosissimo, eppure ogni tanto parlo con uno e con l'altro, mi sentono, ma stazionari è zero, impedenza perfetta e silenziosissimo, ma è un carico fittizio, ma io sto parlando di antenna, non di carico fittizio, tu il carico fittizio lo usi per provare gli apparecchi, questo sì, però io sto parlando di antenne vere e proprie, vabbè. Comunque adesso vediamo, provo a mettere una massa, cosa devo fare? Massa. Allora, per chi è in alto, palazzi in alto, collegare sia il palo, io te lo dico perché da una vita faccio l'antennista, collegare i pali, le normative elettriche dicono così, dovremmo collegare i pali di sostegno delle antenne alla massa a terra condominiale, ma da delinquenti, perché vai a polarizzare il palo con la stessa tensione di terra, che vuol dire che fai diventare il palo della tua antenna, con la tua antenna un parafulmine, quindi io non lo faccio mai, mentre metto quegli scaricatori tipo quello che ti stavo anche consigliando Claudio, ce ne sono tanti tipi, oppure mettere la piastra con le candele della macchina, in maniera che se arriva l'elettrostatica, lì trova il coso della candela che è 1 millimetro, salta lì e scarica prima lì sull'impianto di massa a terra, perché collegarlo direttamente al cavo di massa a terra, al cavo oppure al palo d'antenna, vuol dire farlo diventare un parafulmine, tutto lì. Comunque sto leggendo le cose di questa antenna, se la stravantano, va da qui a là, pim pum pam, tric tric trac, non dovrebbe fare quelle scintille perché è collegata a massa, dicono loro, e c'è lo scaricatore di elettrostatica, oltre al balun per bloccare la radiofrequenza che scende lungo il cavo esterno, perché non ce ne deve scendere, ma se tu c'hai rientri di RF vuol dire che scende. Cazzo. E l'antenna è stata montata, l'antenna non è fatta, non è difficile da montare, e lavora un cavo tipo di polo verticale che devi mettere all'interno dell'antenna, il resto è solo, diciamo, la struttura esterna per coprire il cavo, ma quello che lavora è il cavo che c'è internamente, e poi si blocca con una rua in punta e con la chiave a rugola e rimane fermo, capito? Io dopo che l'ho bloccato va anche tutto bene vulcanizzato sopra, eccetera eccetera, passato anche il nastro, come si fa? Ecco, non è che l'hanno lasciato che non fosse isolato, ho isolato anche gli elementi che non c'era bisogno, perché quegli elementi lì non le succede nulla, perché il filo che c'è all'interno magari lo usura prima di entrare acqua, però è sempre una cosa di tempo. Ma Vittorio, non ha capito tu che stai dicendo, scarico l'antenna è cortocircuitata, provaci pure che il lavoro di carica elettrostatica lo subisca la bobina che c'ha Gianni, capito? Quindi bisogna far sì che la bobina non carichi l'elettrostatica e non te la mandi all'interno, questo è il significato che stai dicendo Vittorio. Quindi o metti uno scaricatore come ti ho detto io, oppure devi trovare una soluzione all'interno in modo che una volta che l'antenna carica l'elettrostatica, quando il tempo è brutto, perché ti ripeto, non tutte le antenne sono uguali, ok, quella vuol dire che è così, al momento in cui lei carica l'elettrostatica e va a buttartela dentro, perché ti arriva poi al cavo, ti arriva al PL, ti arriva alla radio, devi far sì che prima di arrivare alla radio tu devi avere uno scaricatore, altrimenti hai sempre lo stesso problema. Allora, Game Master, non necessita di radiali, non essendo una ground plane. Queste sono le caratteristiche. È protetta contro le scariche statiche, quindi è praticamente cortocircuitata per la corrente continua, duty current DC, quindi essendo in corto quella scintilla non ce la doveva stare. Però niente di strano che quella elettrostatica l'abbia caricata più che l'antenna e il cavo, capito? Insieme all'antenna, quindi che il cavo dove c'è le radio lì non ce le hai collegate alla massa terra ed è così. Varie antenne lo facevano, mi ricordo quando ero in campagna avevamo una Sky Master, come attaccavamo un cavo dove lo avvicinavi, chiodi nel muro, dappertutto scintillava che era una festa. E quindi è rischioso per gli apparecchi, però è così. Però il problema del rientro in radiofrequenza con le tensioni statiche, questo che ti fa la scintilla, non c'entra un emerito, niente, non c'entra niente. Quello della cosa è che si accumula la radiofrequenza che tu stai trasmettendo, anziché essere totalmente radiata dall'antenna, una parte torna indietro lungo il cavo, tutto lì. È come quando stai spruzzando i fiori con la pompa, una parte d'acqua scorre lungo il tubo e ti bagna le mani. Capito? Sì, sì, sì. Ho capito, ma non dovrebbe causare stazionario quando fa rientro. Il cosiddetto effetto pelle. Effetto pelle. Hai capito? E per bloccarlo, questi sono problemi che 27 non dovrebbero proprio esistere. Normalmente esistono. Più è bassa la frequenza e più questi fenomeni si manifestano. Perché è difficile tenere le antenne a due lunghezze, una lunghezza, mezza lunghezza d'onda, un quarto d'onda dal piano di terra, perché possa così cominciare, detto in termine comprensibile, a respirare, a avere i suoi lobi di radiazione. Più avvicini a terra, più si scombinano i lobi di radiazione e più facilmente cambiano i nodi di corrente e ventre di tensione nel punto di alimentazione, tanto che crea rientri di radiofrequenza anche sulla calza del cavo di alimentazione. Spero aver reso l'idea. Adesso vediamo, va. Se lo fa di nuovo prova a fare come avete detto voi. Avanti Giulio, buonasera. Sì, continuate, stiamo ascoltando, ciao a tutti. Comunque quello che ha detto Vittorio adesso in questo momento è esatto. Quando ritorna indietro c'è, cioè, la corrente è effetto pelle sulla calza, per cui evidentemente mantenga qualcosa, o non è assolutamente perfetta. La volta che ti si è piegata probabilmente ti ha creato qualche problema, però è controcircuitata perché c'è l'impedenza che è controcircuitata, dunque c'è qualche problema che ti è successo la volta che ti si è piegata, Gianni. Comunque continuate, vi ascolto molto volentieri, salutoni a tutti e deprendi. Ciao a tutti. Ciao Giulio, ciao. Ciao, ciao. Ciao Gianfranco, va. Ho sentito Vittorio, ehi, ma dove sei finito Vittorio? Ciao! E dove sono finito? Lavoro, prigioniero al lavoro, prigioniero a casa, Gianfranco, che vogliamo fare? E così, poi è un periodo, c'ho una spina calcaneare bilaterale, manco a farmi quelle passeggiate che facevo così, 10-12 chilometri tanto per bruciare un po' delle lasagne che fa zia Lalla. A te fai girare. sì, Vittorio, salutami la vetta. Purtroppo è così, e chi è che non c'ha mal di schiena qua? Tutti quanti siamo così. Ma siamo vecchi, vero Claudio? Mi non fa vedere il dolore, ma è piacere, tanto saluto Giulio. Sì, è così. Come Gianni, ma vedi, anche adesso Giulio si è ricordato ad esempio di una cosa che io non mi sono ricordato. Magari quel problema che ti è successo ha causato qualcosa da poter far sì che col tempo brutto appunto l'antenna carica. poi mi sono accorto che il problema era lì, l'ho spostata di posizione e non l'ha più fatta. Capito? Quindi sono tanti fattori che, perché giustamente questo lo so, che la tua antenna è cortocircuitata, perché è così, la conosciamo con l'antenna. Però il fattore che ti sia entrata elettrostatica può essere causato da tanti, da tante cose. Una in principale è quella che quando l'avete smontata per riaddrizzare e fare, qualcosa è successo, qualcosa vi è sfuggita. Comunque ti ripeto, per far sì che questo venga ma non ti crei problemi, fai sì che all'interno, prima della radio, di attaccare la radio, apri uno scaricatore di massa e vedrai che quella radio funziona perfettamente bene, perché queste cause di rientro di RF sono abbastanza comuni un po' da tutte le parti. Ciao Gianfranco, buonasera, ben ascoltato. Il cambio per Vittorio, così, anzi per Gianni, così saluta Gianfranco. Gianni, hai sbagliato il microfono? No, riprendi Vittorio. Sì. E quindi è così. Sì, forse l'avevo vista la tua antenna, che ho il coso lì, il medico di famiglia a pochi metri da casa tua. Questa antenna strana, che non era Mantova, l'ho intravista. Cos'è? Rossa, colorata, gialla, com'è Gian? Ma poi Gianni dice, no, è bianca, abbiamo montata noi la prima volta, poi mi si è piegata con delle raffiche fortissime di vento, perché c'era un tubo, praticamente un innesto che non è innestato bene, e quindi l'hanno rinforzata con Luca, non so che cosa abbiano fatto, ma penso che da lì, come ha detto Giulio, che ho ricordato questa cosa, sia partito il problema, perché diversamente, ti ripeto, sono antenne eccezionali, sono antenne che funzionano bene, che vanno bene e non creano problemi. Quindi io, infatti, poc'anzi ti ho detto, sarà una coincidenza, sarà un mio pensiero, ma Gianni, da quando hai montato la Gemmaster ti sento sempre in difficoltà con i meschi, con l'alternata, con un sacco di problemi. Però ripeto, questa era una mia coincidenza, ma alla fin fine non sapevo che dovesse scaricato il PL all'interno, e quindi è chiaro che è entrata elettrostatica, il problema era quello. Adesso scaricando è tornato tutto alla normalità, ma può risuccedere, quindi per non risuccedere è meglio che mettano uno scaricatore a massa. Caro Gianfranco, è così, va bene, avanti Gianfranco. Scusa Gianfranco, mi devo sentare che arriva la gente, ci sentiamo dopo, saluto un attimo. E io tieni sotto visione questa cosa che ti ha detto Vittorio, che ti ho detto io. Ok, ciao, a dopo, vai Gianfranco. Sì, ok. Ma io ce l'ho e questi problemi onestamente non li ho visti, nonostante qua ovviamente le elettrostatiche, anche a causa dei dipoli soprattutto, che sono ovviamente sacrificati da De Bano proprio per impedirle di fare quegli scherzi, perché purtroppo lasciando il dipolo libero, cioè in diretta, per onda intera, sapendo che è aperto, di lì ovviamente la scarica ti arriva a prescindere, perché è un'antenna anche di disturbi di quel genere. Quindi l'ho sacrificata e mi sono assegnato a mettere dei ban, però proprio la Game Master, poi per la CB figurati, dipende molto dalla qualità del cavo che ha messo. Quindi il discorso è tutto. E poi sulle antenne di questo tipo, dato la loro lunghezza, un ottimo commutatore ci sta sempre, perché quando finisci tutto, giri il trick and track e l'antenna va a massa. È da dire che anche tutti i miei apparati comunque sono tutti a massa, quindi anche quello te lo specificano su qualunque manuale. Comunque avanti di tu. Eccoci qua. Allora, il problema è, la sto vedendo adesso io, così non la conosco Gianfranco, non ho avuto modo di constatare e vedere, ma sto vedendo l'adattamento di impedenza, il sistema, non può essere efficiente come la Mantova 1, non può avere la stessa efficienza, hanno la stessa lunghezza, sono sicuro che se andare a misurare la resistenza di radiazione, se una ha 27 28 ohm di resistenza, l'altra ne ha almeno 2-3 ohm in meno, questa Game Master, per cui 2-3 ohm in meno vuol dire efficienza in meno, tutto là. Nonostante la vecchia Matova 1 e Matova 5 avessero solo 4-5 radiali, ma era più che sufficiente per adattare perfettamente l'impedenza senza grosse perdite. Rispetto a questo sistema, a colpo d'occhio, poi c'era da fare le prove, anzi sto entrando in internet a curiosare. A te Gianfranco. Sì, guarda, siccome io ci ho avuto tutte e due, la Matova 1 l'ho dovuta togliere sia per questioni di età, perché era abbastanza vecchiotta, ma soprattutto per questioni di peso, perché c'è un peso enorme. E quindi ho dovuto mettere una Game Master, che è così come le altre, è un'antenna diciamo, che ha la ricopertura in vetroresina, quindi è più ermetica, più tranquilla, non si corrode, anche se tutti dicono che è più delicata. Anche un paio di giorni fa che c'era quel ventaggio, vado a vedere, era mezzo piegata, ma la sto usando adesso con esattamente un watt e va molto bene, ecco, non c'è niente da dirle. Riguardo al rendimento, ti vorrei dire che è un'antenna molto silenziosa, però è anche molto molto sensibile rispetto alla Matova 1, che a causa della sua struttura si portava dentro scariche, scarichette, rumori e rumorini. Questa invece è un'antenna molto silenziosa, ma allo stesso tempo molto sensibile. La larghezza di banda più o meno la stessa, quindi va da 25 spiccioli fino a circa 30, ecco, forse qualche cosetta in meno. Comunque, quindi, sotto quel profilo sono pressoché identiche. Ripeto, quello che meraviglia è la favolosa ricezione che ti consente, è veramente notevole. Io ad esempio adesso vedo che c'è anche preparazione e quindi sentono già i tedeschi e compagnia cantante, sia in alto sia in basso rispetto a questo canale. E così, avanti Claudio. Sì, sì, vabbè, io quello lo percepisco dall'altezza che ho. Gianfra, non stiamo parlando di prestazioni di antenna, a prescindere che la Matova possa avere un punto, dico una coglionata, un punto di prestazione in più rispetto alla Game Master, non è quello il problema. Io ti vorrei far rispondere da Giulio, perché tu hai detto una cosa che secondo il mio punto di vista è più che fattibile, più che normale. Non si può usare un RG58 da 30 metri con un impianto come c'è Gianni, questo è il mio punto di vista, perché l'RG58 è il peggior cavo che esiste, ma può essere utile per un baracchino, un alimentatore e un'antenna con un cavo da 8 massimo 10 metri, hai capito? Non ha niente, è un cavo che noi abbiamo usato per tanti, tanti, tanti anni e poi siamo passati tutto al vecchio RG8, perché quel cavo è veramente un cavo da giocare, ma quando tu già hai delle radio insomma buone, hai un impianto fatto bene, hai un'antenna buona, perché non stiamo parlando di antenna che sia meglio o peggio della Matova, correggetemi se sbaglio, ma stiamo parlando di un impianto serio con un cavo che fa cagare, ok? Questo è il mio punto di vista, senza nessuna schermatura, senza nessuna prestazione. Il cavo vuole buono e ti vorrei far rispondere da Giulio, che in materia è più preparato di me, perché la vera realtà è quella, hai capito? Assolutamente d'accordo, io non sapevo che ci fosse un RG58, soprattutto se di quelli ultimi che stanno togliendo, che non ci hanno calza, quindi il discorso è proprio finito qua, non c'è testo, ecco, Vittorio lo può dire, in 30 metri di RG8 cosa arriva? Sì, a questa frequenza è facile, ma se ci attacchi poco a poco una frequenza un po' più alta, praticamente in antenna non sta arrivando niente. Vero Vittorio? Dimmi che state scherzando, No, non sto scherzando. discorsi e la gente ci ascolta, e nessuno di noi è un imbecille, perché grazie a Dio abbiamo fatto la nostra garretta, ma cioè, c'è un Giulio Dollaro che sta ascoltando, che ha fatto un grande lavoro, che è quello di antennista, conosce tutti i cavi a memoria. Non possiamo parlare di un impianto fatto in una maniera corretta e bella, con radio belle, buone, funzionanti, con un amplificatore da 300 watt che danno 300, da 300 watt al wattmetro, ma in antenna se ne arrivano 150 è troppo, operando con che cosa? Con un RG58. Io capisco tutte le cose del mondo, o perché è un problema farlo entrare nella finestra, o perché la calata, non so, dà fastidio a quello, ma cazzo, cioè stiamo parlando di un cavo che serve per far giocare i bambini. L'RG58 oggi come oggi non serve neanche per fare le ispezioni interne. Giulio, vuoi rispondere per favore? No, continuate, mettetevi d'accordo. No, io non mi metto d'accordo con nessuno, perdonami se ti ho tirato in ballo, ma qua stiamo affrontando un discorso di un impianto. A me l'RG58 non esiste proprio, io è da secoli che non lo uso, ok? Ho usato sempre il 213 e poi sono passato alla Camilla. Ma il problema vero, Gianfra, non stiamo parlando di antenna meglio o peggio di un'altra, qua stiamo parlando di un cavo che non serve a niente, e secondo me il problema principale di tutti i difetti che può avere chiunque usi le RG58 è quello, per me. Poi, ripeto, correggetemi se sbaglio, però io non la penso così. Mario, la RG58 l'ho usato per 12 anni, non mi ha mai dato problemi, per cui l'ho usato con amplificatori anche più grossi, eccetera, eccetera, quindi non è RG58, perché quello è RG58 e è quello buono. Scusa, perché veramente, guarda, ti rispondo io Gianni, non è neanche da commentare, perché questi RG58 non, per fare queste distanze non sono proprio usabili, soprattutto ripeto quelli che stanno fabbricando adesso, non mettono calza per ovvi motivi economici, non vanno bene, punto, direi è proprio, ci possiamo mettere una, come io sto dando ragione a Claudio, perché ce n'è da mettere una tomba tombale, cioè una pietra tombale, perché sono da mesi che sto dicendo che tra RG58 e connettori ce n'è da mettersi le mani in testa, connettori che neanche avvitano, anche quelli costosi, io ho preso quelli da 5 euro l'uno, professionali, capito? Eppure ce ne sono sfilettati e che fanno di tutto di più. Dirì cosa è successo? È successo che tu hai dato molta potenza, quello ha trovato qualche resistenza lungo il cavo, poff, ha scintillato, e adesso ci devi mutare il cavo probabilmente, perché sennò te ne entra una roba di anche d'acqua te entra, non solo di cavo. Poi se ne vedevi di cavi come sono ridotti, riprendi Vittor. Chiamami di fantasia. No Gianni, non devi parlare così, cioè, stiamo discutendo, non ti stiamo accusando di... È così, la realtà è quella. Magari per quel tipo di antenna, perché io te lo ribadisco ancora una volta, tu hai usato il RG58 per 12 anni, ma l'hai usato con un'antenna diversa. Evidentemente con quel tipo di antenna l'RG58 ti può creare problemi, e infatti te l'ha creato. Di questo stiamo parlando Gianni, non è che tu ti devi sempre... offendere per quello che ti dicono, stiamo facendo un QSO basato non sul tuo problema, ma su quello che può creare quel tipo di antenna, quel tipo di cavo e quel tipo di cosa, capito? Non è che nessuno ti sta dicendo che non, secondo te va bene così, a casa tua puoi mettere anche il filo di rame come antenna Gianni, ognuno fa quello che le piace. Stiamo discutendo sul fatto che su quell'antenna che hai tu, perché Giulio c'era uguale, però usa un H1000 e quindi non ha quel tipo di problema, o non gli è mai successo, o chiunque io abbia, anche Alessandro per esempio usava, ha usato il 213, magari con quel tipo di antenna il problema è arrivato, perché quel cavo magari non va bene per quel tipo di antenna. Stiamo facendo delle supposizioni, cercando di capire perché ti è entrata l'elettrostatica, pur sapendo, perché lo sappiamo tutti, che quell'antenna è un'ottima antenna. costruita come è costruita per il prezzo che costa, ok, su quello non ci piove, perché è così, la realtà è quella, però è un'ottima antenna, funziona eccetera, però può darsi che il problema sia nato dal cavo, non è detto, mentre l'altra antenna, la mantova che avevi non te lo creava, è questo il problema Gianni, noi stiamo dicendo, stiamo parlando esclusivamente dell'impianto che hai tu, ce ne sono peggio di impianti di quello che c'è tu, non è che il tuo è il peggiore o il migliore, o capito? Stiamo parlando di un problema. Sì, io ci ho capito, però ti dico una cosa, che con la legge 58, te l'ho detto, per 12 anni non l'ho mai cambiato. Sì, è duro, è nulla, ed è lo stesso capo che io avevo prima, capito? Ce l'avevo anche prima quel capo lì, perché quello lì era quello che mi era mandato, non l'ho comprato adesso, ce l'avevo già da un po' di tempo, ed era conservato bene in un armadio, quindi non è neanche ha preso umidità e nulla. Ma continuano a capire già, io non mi intrometto più nel discorso perché continui a non capire, su quel tipo di antenna può darsi che quel tipo di cavo non va bene, non vada bene, ok? Questo è il problema, tu l'hai usato per 12 anni con un altro tipo di antenna, anche pur avendo lo stesso impianto, che poi non era quello, avevi una radio massimo 2 e l'amplificatore era un amplificatore piccolino per come ti ho conosciuto io non ti ho mai conosciuto amplificatori oltre i 300 watt, questo è quello che mi risulta, poi se ce l'avevi nascosto non lo so, però ti ho sempre conosciuto con la Mantova, con la G58, le tue due o tre radio che avevi, io ti ho conosciuto sempre col Galaxy, poi hai comprato il Magnum, quella è la radio che io conoscevo, e il tuo 747, questo è quello che conoscevo io, quindi non so se tu avevi altri amplificatori più grossi, eccetera, il fatto è che adesso hai un bellissimo impianto, hai un bellissimo amplificatore, hai una bella stazione radio, ok, però è un cavo che per me fa cagare, consentimi di dirlo in gergo molto sporco, ci vuole un cavo buono per far andare l'impianto che hai, per me, poi tu la puoi pensare come vuoi, stiamo discutendo. E già hai ragione, va bene, dai. Continuate e cambiate discorso, vi siete tutta la sera, vedete la mattina sicura. No, stiamo parlando di problemi, ti ripeto, perché anche questo fa parte di un questionario che può essere interessante anche per chi ascolta. Ti ripeto, ribadisco che non stiamo parlando di te, stiamo parlando di un problema che può sussistere, ok? Perché a me quando ero a casa di mia madre, ti parlo nel lontano 1975-76, che usavo un HB23 con un tanner piovolo a tavola, un alimentatore lineare non ce n'era, avevo le RG58 di Vici Vici Bucci di prima serie con la Super Rangibus, che allora la Mantova non esisteva ancora, la Super Rangibus, io facevo TVI al mio vicino per colpa del cavo, ok? Ti sto portando un problema del 1975, facevo TVI al mio vicino per il problema del cavo, ho fatto 1000 spostamenti, tolta l'antenna lì, messa là, mille cose, alla fine mi ero rotto le scatole perché mamma mi voleva far attaccare tutto, ok? E grazie a Ernesto Toccai, che è ancora vivo e vegeto, mi aveva dato una ventina di metri di RG8, misi quel cavo Gianni, il problema era sparito, ecco, questo è un discorso molto, molto chiaro per dirti che cosa può fare un cavo, ok, tutto qua, avanti Vittorio, sei documentato? Sì, sì, sto vedendo di che antenna si tratta, insomma, hanno detto se la si paragona a questa che ho sul tetto, 37 anni, non c'è storia, ma senz'altro meglio questa che sto usando, che è capotata poi a 45 gradi tra l'altro, mentre se si fa la comparazione con le nuove Mantova 1, visto che hanno fatto tre passi indietro in qualità sia elettriche che meccaniche, così, cioè chi dice che va meglio uno, c'è chi dice che va meglio l'altro, per cui non è che una prevalga nettamente, come si paragonava la vecchia Mantova 1 o Mantova 5, nei 20 anni fa non c'era storia, era 3-0 per la centro, ma se si fa il paragone con le nuove Mantova, con i nuovi materiali, diciamo che un discorso di preferenza, poi come gente che l'ha montata, come ha fatto Gianni, come ha fatto Gianfranco, appunto la trovano riposante, silenziosa, per cui evidente va bene, spero che costi anche a meno. A te Gianfranco. 170. Sì, Vito. Beh, ma poi, cioè, non è che bisogna discuterne più di tanto. Se noi ben ci ricordiamo quando eravamo ragazzi e siamo andati a fare l'esame, la prima cosa che ti dicevano era calcola la perdita di un cavo, eccetera, ma se uno si prende la briga di leggere qualunque specifica del 58, tra l'altro quello umile, quindi quello che dovrebbe essere buono, cioè rimane a bocca aperta, anche in 10 metri, in 27, eccetera, cioè delle perdite assurde. E poi non è assolutamente un cavo da utilizzare in caso di lineari che vanno oltre una certa potenza. Già dando le 300 watt, più che altro potrebbe diventare, che ne so, la resistenza di una stufa, ecco. Forse andrebbe bene per quello. E questa non è tanto per dire, questo è quello che ci hanno fatto studiare, quello che c'è scritto sui manuali. Poi che uno si tenga un pezzo di fil di ferro per 30 anni e si accontenta, quello è tutto un altro discorso. Però qua stiamo parlando di specifiche, quindi di matematica e tutte quelle cose. E mi sono spaventato io col cavo, quello che ha detto Claudio, l'H1000. Su 50 metri in banda già VHF stavo perdendo qualche watt, una cosa assurda. Il cavo ovviamente è originale, non quelli fatti così. E ho dovuto mettere il Jflex per iniziare a avere segnale a quelle distanze. E quindi è così, ma sono leggi fisiche, c'è poco da fare. Quindi se uno vuole delle prestazioni ovviamente deve mettere le cose adatte, perché sennò è una cosa per sempre attenta. E così, poi anche Claudio mi sa qualcosa, perché Claudio, se non mi ricordo male, in facciata ricavo ne ha parecchio, se si azzarda poco a poco a mettere un 58 probabilmente le suonano la porta, anche perché lo sentono il citofono, vero Claudio? Cosa stai scherzando? Io, vabbè, il 58 non ne ho mai usato. All'inizio usavo il 213, quello insomma mediocre, ma non mi ha mai creato problemi. Poi quando ho fatto le sue direttive ho una calata unica di H1000, sono intorno ai 40 metri. E basta. Guarda, io qua c'ho... Allora, tu immaginate che il cavo, questo è un coso che è, appunto mi aveva fatto avere Giulio, che è abbastanza specifico in tutte le sue, in tutti i suoi cavi. Immaginate che per allora la trazione per 100 metri di bibi, allora tu immaginate che solo il cavo non le puoi dare più di 500 watt, più di 500 watt. Ok, più di 500 watt, quindi già è un cavo che proprio non ha nessuna capacità. Però me lo volevo leggere bene, perché non trovo gli altri 100 watt, ma non ti volevo leggere, forse l'altro foglio che c'ho, ti volevo leggere la perdita che ha per la misura che hai tu Gianni. Quindi se tu